Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. A Roma stiamo avendo le difficoltà perché è Roma, ma le supereremo, quindi andiamo avanti e abbiamo deciso di accogliere questa sfida e la porteremo avanti. Così ha parlato Luigi Di Maio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vicepresidente della Camera, nonché uno dei componenti del direttore del Movimento 5 Stelle, soddisfatto per il fatto anche che oggi sono arrivati due nomi degli assessori che aveva annunciato la sindaca Raggi da diverso tempo. Sapete che la giunta è incompleta da settimane, si aspetta soprattutto per l'assessorato al bilancio. Bene, oggi ha dato questi nomi di cui parleremo. Entusiasmo da parte del Movimento 5 Stelle, Grillo ha detto sono contento, piena fiducia alla sindaca, invece naturalmente poi critiche anche dalle opposizioni nei confronti di queste due figure. Chi dice hanno scelto poi alla fine nei salotti e nei luoghi di potere, chi dice che è andata a pescare per disperazione, insomma, un ex PD che appunto è l'assessore al bilancio. Ne parleremo come sempre nella pagina politica ampia del venerdì, perché lo sapete che c'è sempre il bilancio della politica della settimana, e quindi parleremo anche di referendum, visto che fra l'altro, e cercheremo in parte di seguirlo, c'è un confronto, il confronto tra il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il costituzionalista Zagrebelsky sulla 7 a proposito delle ragioni del sì e delle ragioni del no. E poi c'è, fra i tanti temi di cui si parlerà qui Effetto Notte, anche questa sentenza della Cassazione a proposito di una coppia di donne con bambino che ha delle motivazioni particolari, perché dice che non c'è nessuna norma nella Costituzione che vieta che due persone dello stesso sesso possano avere dei figli, e questa sentenza e soprattutto questo passaggio, insomma, potrà aprire probabilmente le porte ad altre sentenze. È un precedente importante, ce ne occuperemo. E tra l'altro è arrivata una notizia proprio in questi istanti, vi aggiorno proprio in diretta: a Milano è morto Bernardo Caprotti, fondatore di Esselunga, aveva 90 anni, ne avrebbe compiuti 91 il prossimo 7 ottobre, una figura straordinaria, insomma, il fondatore di Esselunga. Tra l'altro si parlava nei giorni scorsi di una possibile vendita. Comunque, adesso vi dico quali sono prima di tutto le notizie più importanti, quadro, riassunto della giornata, e poi cominceremo come sempre dopo le 21:15 a approfondire i vari temi. Morto Bernardo Caprotti, fondatore di Esselunga, aveva 90 anni. Roma, dopo una settimana, è completata la giunta, il bilancio al fedelissimo ex PD Andrea Mazzillo, le partecipate all'imprenditore Massimo Colomban, tensione sulla Muraro, indagata con un imputato di Mafia Capitale. Dati Istat, in un anno 162.000 occupati in più e a settembre fuori dalla deflazione dopo 7 mesi. Il Papa in Georgia, Francesco chiede ancora la pace per i popoli in guerra. Deutsche Bank verso l'accordo con gli Stati Uniti, fa il botto in borsa, in mattinata il crollo sui timori di fuga di alcuni hedge fund. Gerusalemme, leader da tutto il mondo hanno partecipato ai funerali di Stato dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Clima, anche l'Unione Europea ratifica l'accordo di Parigi. Il terremoto dell'Aquila, Bertolaso assolto dall'accusa di omicidio colposo. L'ex capo della Protezione Civile commenta: vince l'imparzialità. Sentenza della Cassazione, via libera al riconoscimento dell'atto di nascita di un bimbo nato in Spagna da due donne. Arte, recuperati due Van Gogh rubati ad Amsterdam, erano in mano alla Camorra, valgono 100 milioni di dollari. E poi dallo spazio, la sonda Rosetta ha toccato la cometa e si è spenta per sempre. Un viaggio lungo 10 anni, missione unica nell'era spaziale. E partiamo quindi da Roma, dove dopo settimane di attese, di annunci, di dimissioni, di veleni, di polemiche, è stata completata la giunta. La sindaca Raggi ha nominato due assessori. Il bilancio va al fedelissimo ex PD Andrea Mazzillo, le partecipate all'imprenditore Massimo Colomban. Ma ci sono nuove ombre sull'assessora all'ambiente Muraro, indagata ora con un imputato di Mafia Capitale, di cui parleremo tra poco. Passiamo ai dati Istat che riguardano il mercato del lavoro in Italia. Hanno tutti superato i 50 i lavoratori che hanno segnato l'incremento tra gli occupati registrato ad agosto, più 0,1%. Non che sia un male, ogni posto di lavoro in più è positivo. Dallo stesso grafico Istat emerge però come nelle fasce tra i 25 e i 49 anni il calo sia netto. Il discorso si ripete uguale anno su anno. I 162.000 posti in più sono il risultato di 400.000 nuovi assunti over 50 e del calo di 239.000 giovani. Tutto questo mentre il Jobs Act lavorava. I lavoratori in più sono in maggioranza stabili e lavorano per parecchie ore alla settimana, dunque non si parla di voucher e nemmeno di lavoro occasionale. Passando al mese di settembre e aprendo il capitolo prezzi, tecnicamente l'Italia esce dalla deflazione, con un aumento dello 0,1% rispetto a settembre 2015. Su base mensile, invece, ancora un calo, meno 0,2%. I prezzi energetici non crollano più e dunque anche i prezzi al consumo riprendono una leggera quota. E visto che sono passate solo poche settimane dall'inizio della scuola, una menzione va ai costi per l'istruzione, perché la spesa per le famiglie con bambini è in aumento. Più 1% rispetto a un anno fa. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo ora dei mercati finanziari. Il tema di giornata è stato Deutsche Bank, che dopo aver toccato perdite vicino al 9% ha chiuso alla borsa di Francoforte con un guadagno del 6,39%. A spingere la banca tedesca contribuiscono le indiscrezioni su un accordo in arrivo degli Stati Uniti per ridurre da 14 a 5,4 miliardi di dollari la multa per la vicenda dei subprime. Prima i dubbi sulla solvibilità delle sue obbligazioni, poi la montagna di derivati in bilancio, la controversia giudiziaria miliardaria con gli Stati Uniti e infine l'ultima tegola, la fuga degli hedge fund americani. Problemi giganteschi per la prima banca tedesca, Deutsche Bank, che vive il suo anno più amaro e continua a precipitare in borsa. Tanto che l'amministratore delegato John Cryan si vede costretto a prendere carta e penna e scrivere ai dipendenti per rassicurarli del fatto che non ci sono ragioni che giustifichino tale ondata di speculazione, che l'istituto ha solide fondamenta, 215 miliardi di riserve, e per invitarli a non farsi condizionare nell'attività quotidiana. L'istituto, che da giorni mette sul mercato asset e partecipazioni per fare cassa, dice di essere nelle condizioni di pagare la multa da 14 miliardi comminata dalle autorità americane. Probabilmente riuscirà a patteggiare, ma il mercato non ci crede e la crisi di fiducia si fa ogni giorno più profonda, con la politica che è chiamata necessariamente ad interferire. Sì, perché si ipotizza un intervento di Stato indispensabile ad evitare un collasso che avrebbe conseguenze sulla stabilità dell'intero sistema finanziario europeo. Ma l'opinione pubblica tedesca è fortemente contraria a mettere soldi pubblici nelle banche e a 12 mesi dalle elezioni il cancelliere Angela Merkel non può permettersi di sfidare l'elettorato. Deborah Rosciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come avete sentito prima, notizia appena arrivata, è morto Bernardo Caprotti, l'imprenditore milanese avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 7 ottobre, è nato in una famiglia di industriali tessili nel 1957, ha fondato i supermercati S. Lunga, ma si è dedicato a tempo pieno alla società dal 1965. Di recente Caprotti aveva dato mandato alla banca d'affari Citigroup per valutare la vendita di S. Lunga dopo le manifestazioni di interesse di Blackstone. Il Papa in Georgia, Francesco, chiede nuovamente la pace per i popoli in guerra da anni, in particolare per Iraq e Siria, e dal pomeriggio è a Tbilisi, appunto in Georgia, da dove ha cominciato il suo viaggio pastorale nel Caucaso, che lo porterà anche in Azerbaigian. Prega per la devastazione della guerra in Siria e Iraq davanti a un gruppo di profughi iracheni. Francesco arriva a Tbilisi, capitale della Georgia, per portare un messaggio di pace in questa periferia ferita dell'Europa al confine con il continente asiatico. Un viaggio che proseguirà in Azerbaigian, in una sorta di continuità con la visita del giugno scorso in Armenia. La Georgia denuncia quella che definisce l'aggressione russa del 2008 e la contesa delle terre di Abkhazia e Ossetia del Sud, ma il Papa non entra nelle dispute politico-diplomatiche e richiama solo le prerogative sovrane degli stati, come probabilmente farà anche nella capitale dell'Azerbaigian, paese in conflitto con l'Armenia per la regione del Nagorno-Karabakh. Ma la visita è anche l'occasione per una sorta di pacificazione con i cristiani ortodossi georgiani, che lo accolgono dentro il loro patriarcato. Carlo Marroni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tbilisi, Georgia. E parliamo dei funerali di Shimon Peres, si sono tenuti oggi a Gerusalemme a rendere omaggio all'ex presidente israeliano, premio Nobel per la pace nel 1994, morto a 93 anni martedì sera. Molti i capi di Stato da tutto il mondo in rappresentanza di 70 paesi. Presente anche il presidente palestinese Abu Mazen, al quale il premier israeliano Netanyahu ha anche stretto la mano. Clima: i ministri dell'ambiente degli Stati membri dell'Unione Europea, riuniti questa mattina a Bruxelles, hanno approvato la ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione Europea. A meno di un anno dalla sua adozione, dicembre 2015, l'accordo sul clima di Parigi entra di fatto in vigore anche in Europa. Per la ratifica formale serviranno una o due settimane. La decisione è stata raggiunta durante un meeting straordinario del Consiglio Ambiente. Una volta approvata dal Parlamento europeo la prossima settimana, l'Unione europea potrà dunque depositare i suoi strumenti di ratifica prima che i processi nazionali vengano completati negli Stati membri. La notizia arriva a distanza di quasi un mese dalla ratifica di Cina e Stati Uniti annunciata durante il G20. L'accordo tra i 28 europei era necessario perché il 7 novembre, durante COP22 a Marrakech, si inizierà a discutere su come concretizzare gli impegni di Parigi, inclusi quelli finanziari, e l'Unione Europea non poteva arrivare impreparata. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora di nuovo in Italia con questa sentenza della Corte di Cassazione che ha dato il via libera al riconoscimento dell'atto di nascita di un bimbo nato in Spagna da due donne sposate e poi divorziate, una delle quali ha partorito mentre l'altra le ha donato gli ovuli. Per la Cassazione deve prevalere l'interesse del minore ad avere entrambi i genitori, in questo caso che sono due mamme, perché dice anche se non ci sono norme che regolano questi casi, non c'è alcun divieto costituzionale che preclude alle coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli. E di questo parleremo tra pochissimo qui Effetto Notte. E poi c'è una notizia che riguarda il terremoto dell'Aquila. L'ex capo della Protezione Civile Claudio Guido Bertolaso è stato assolto dall'accusa di omicidio colposo perché il fatto non sussiste al processo Grandi Rischi bis in merito al sisma appunto dell'Aquila del 6 aprile 2009. E adesso la cronaca, due vittime di un agguato di camorra nel pomeriggio a Miano, in periferia di Napoli. Le vittime, entrambe pregiudicate, erano affiliate al clan Lorusso. I killer sono entrati in azione alle 16, mentre alcuni bambini giocavano a calcio nello stesso cortile. Quindi hanno ammazzato queste persone vicino a questi bambini che giocavano. Lutto nello spettacolo, si terranno domani alla Basilica di San Lorenzo, fuori le mura a Roma, i funerali di Laura Troschel, attrice, ex compagna di Pippo Franco, che si è spenta a 71 anni, fu anche cantante, protagonista di molte commedie anni 70. Tra le tante partecipazioni, anche quella nella serie I ragazzi del muretto e alla soap opera Un posto al sole. E vedo adesso una notizia di poco fa, un'agenzia di poco fa, danneggiate le statue nella Basilica di Santa Prassede a Roma, nei pressi di Santa Maria Maggiore, al centro di Roma, a dare l'allarme alla polizia, al sacerdote, raccontando che un uomo di colore alto circa 1,80 m ha danneggiato le statue di Sant'Antonio e Santa Prassede. Arte, stiamo parlando di arte e sono in buone condizioni, per fortuna in questo caso, i due Van Gogh trafugati ad Amsterdam 14 anni fa e sequestrati oggi alla camorra. Erano stati sottratti nel dicembre del 2002 dal Museo Van Gogh di Amsterdam in un furto che fece storia. Ora sono stati ritrovati dalla Guardia di Finanza in Italia e ormai non ci sperava neanche più il direttore del museo Axel Ruger. Naturalmente è una giornata fantastica, una giornata felice per il museo Van Gogh. Si tratta di due capolavori, ovviamente di Van Gogh, del valore di almeno 100 milioni di dollari, recuperati nell'ambito di un'inchiesta sulle attività di narcotraffico del clan camorristico degli Amato Pagano, grazie alle dichiarazioni di un pentito. I quadri erano stati acquistati dal clan dopo il furto, mentre alcuni componenti della banda, ritenuta responsabile, erano stati arrestati circa un anno dopo, ma l'area furtiva non era mai stata recuperata. I due dipinti sono la spiaggia di Scheveningen del 1882 e una congregazione lascia la chiesa riformata di Nuenen del 1884. Per aver passato 14 anni fuori da un museo, i due quadri sono in condizioni relativamente buone, nonostante siano senza cornice e presentino qualche danno. L'autenticità è stata confermata da un esperto e la notizia sta ora rimbalzando su tutti i media internazionali. Eugenia Fiore, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere una notizia dallo spazio, è terminata alle 13.20 oggi la missione Rosetta. Dopo 12 anni di servizio nello spazio, la sonda si è schiantata, come previsto dall'Agenzia Spaziale Europea, contro la cometa Kurimov-Gerasimenko, chissà perché poi danno questi nomi così complessi. La sonda è stata la prima ad essersi avvicinata a una cometa ed aver rilasciato sulla superficie un lander. Bene, adesso vi ricordo, non l'avevo ricordato all'inizio, ma tanti di voi ormai lo sanno, che per interagire con Effetto Notte c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, lì potete scrivere i vostri commenti e le vostre osservazioni, oppure attraverso il numero per SMS e WhatsApp che è il 349-238-6666. Adesso c'è la viabilità, poi cominceremo a approfondire vari argomenti, ci sarà il bilancio della politica della settimana, ma prima questa sentenza particolare della Cassazione. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. notizie le avete sentite, le più importanti. Tra poco vi ricorderò i titoli se non avete acceso la radio puntualmente alle 21. E vi ricordo, per interagire, come vi dicevo, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS. E tra poco cominceremo a approfondire gli argomenti partendo da questa sentenza della Cassazione, vi dicevo, ma prima di tutto le notizie più importanti. Morto Bernardo Caprotti, fondatore di Esselunga, aveva 90 anni. Raggi nomina Mazzillo al bilancio, alle partecipate Colomban, tensione sulla Muraro indagata con un imputato di Mafia Capitale. In un anno, dice l'Istat, più 162.000 posti di lavoro, cala la disoccupazione, a settembre fuori dalla deflazione dopo 7 mesi. Ritrovati i 2 Van Gogh rubati nel 2002, li aveva la Camorra, erano in un casolare dei clan, valgono 100 milioni di dollari, erano stati rubati ad Amsterdam. Deutsche Bank verso l'accordo con gli Stati Uniti fa il botto in borsa, in mattinata c'era stato il crollo sui timori di fuga di alcuni fondi. E poi sisma dell'Aquila, Bertolaso assolto dall'accusa di omicidio colposo, non ha commesso il fatto, l'ex capo della protezione civile dice ha vinto l'imparzialità. E a Gerusalemme i funerali di Peres, c'erano a omaggiarlo leader e capi di Stato da tutto il mondo. Adesso parliamo di un'altra sentenza che riguarda una coppia di donne che si sono viste riconoscere entrambe la genitorialità di un figlio. La sentenza è stata emessa dalla Cassazione, la quale appunto ha dato il via libera al riconoscimento dell'atto di nascita di questo bambino, che è nato in Spagna da 2 donne che poi hanno divorziato, una delle quali ha partorito il bambino, la donna spagnola, e l'altra compagna, la donna italiana, ha donato gli ovuli. Per la Cassazione deve prevalere, in questa sentenza dice che deve prevalere l'interesse del minore ed ad avere entrambi i genitori, quindi in questo caso le 2 mamme, perché, spiega la Cassazione, anche se non ci sono norme che regolano questi casi, non c'è alcun divieto costituzionale che preclude alle coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli. Allora, a questo punto chiamo in causa, per spiegare questa sentenza, l'avvocata Susanna Lollini, che è avvocata di Rete Lanford, associazione che si occupa dei diritti LGBT, cioè delle persone lesbiche, gay e transessuali. Avvocata Lollini, buonasera. Buonasera. Mi pare questa una sentenza davvero particolare, con questa dichiarazione anche molto forte, che siccome non c'è alcun divieto nella Costituzione che preclude alle coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli, mi sembra che possa aprire la porta a molte altre sentenze di questo tipo. Cosa ne pensa? Sì, dico, sicuramente è una sentenza molto importante. Aspettavamo questa pronuncia, avevamo partecipato alla discussione, hanno assistito alla discussione che era stata fatta in Cassazione, era molto importante. Naturalmente è una sentenza molto complessa, molto articolata, che afferma dei principi di diritto molto interessanti. Infatti, se posso interromperla, aggiungo per chi ci ascolta anche quest'altro passaggio di questa sentenza, che dice: la nozione di vita familiare nella quale è ricompresa l'unione tra persone dello stesso sesso, spiega la Suprema Corte, non presuppone neppure necessariamente la nozione di vita familiare la discendenza biologica dei figli, la quale non è più considerata requisito essenziale della filiazione. È comunque, dice sempre la Suprema Corte, tale requisito sussiste nel caso in esame, cioè che c'è stata proprio filiazione, avendo una donna partorito e l'altra donato il proprio patrimonio genetico. Sì, diciamo che, ripeto, bisognerà, credo, leggerla e studiarla molto bene, perché la motivazione è molto ricca e articolata, però io credo che i principi fondamentali siano quelli che sono stati accolti già con la riforma della filiazione, quella che ha stabilito che non ci sono più figli legittimi e naturali, che c'è uno stato unico di figlio, perché in quel caso lì si è proprio spostato il rapporto, si è concentrato dall'aspetto genetico, nella verità genetica, diciamo così, alla responsabilità genitoriale. Adesso la genitorialità si basa sull'assunzione di responsabilità che i genitori fanno, ma è lo stesso principio anche della legge 40, tanto vituperata e pessima sotto molti aspetti. Quella sulla fecondazione assistita, sulla, no? Sulla procreazione medicalmente assistita, esattamente. Che però dice proprio questo, perché nel momento in cui prende atto che c'è una procreazione medicalmente assistita eterologa, e quindi che i gameti potrebbero non essere di quelli che poi risultano dal certificato di nascita ai genitori di quel bambino lì, non ha importanza se sono o no legati geneticamente a quel bambino, e non importa nemmeno se hanno violato la legge 40. L'importante è che se hanno dato il consenso e si sono assunti la responsabilità di avere un figlio con la procreazione medicalmente assistita, a quella responsabilità restano vincolati nei confronti di quel bambino. Quindi è questo il principio, secondo me, basilare, e che è quello su cui adesso, ma anche con tantissime sentenze della stessa CEDU, è il concetto di vita familiare che piano piano cambia, tenendo conto anche di queste tecniche di procreazione che ci sono comunque, e comunque a tutela dei bambini. Il riconoscimento del certificato, che peraltro per legge deve essere trascritto così com'è, perché i certificati di nascita vengono formati secondo la legge del paese in cui nascono, diciamo così, anche i certificati di nascita, non solo i bambini, devono essere trascritti così come sono e devono riconoscere lo stato di filiazione così come viene cristallizzato nel paese di nascita dei bambini. Detto dalla Cassazione, è un principio di diritto e quindi è un precedente molto importante. Infatti. La ringrazio, avvocata Susanna Lullini. Grazie. Niente. E buonasera. Buon grazie. E adesso invece facciamo allora il bilancio politico della settimana, come sempre tutti i venerdì qui a Effetto Notte. C'è la nostra Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Allora, direi che così a grandi linee, per non andare troppo nel dettaglio, possiamo riassumere come notizie più importanti di questa settimana dal punto di vista strettamente politico-partitico, perché poi ci sarebbero anche le pensioni, eccetera. Renzi che ha rilanciato il ponte sullo stretto di Messina, poi la giunta Raggi che ha formalizzato il no alla candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024, e mentre si addensano nuove ombre sull'assessore all'ambiente Muraro, la sindaca Raggi oggi ha annunciato i nomi degli assessori di bilancio e alle partecipate. E poi, per quanto riguarda il referendum costituzionale, proprio questa settimana è stata decisa la data dal Consiglio dei Ministri, sarà il 4 dicembre, e poi siamo ormai in pienissima campagna elettorale, perché Renzi era ieri a Firenze, diciamo è stato un po' quasi l'inizio ufficiale, in realtà va avanti da mesi questa campagna elettorale, e adesso c'è anche il confronto sulla 7, ospiti di Mentana solo il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il costituzionalista Zagrebelsky. Vogliamo sentire proprio un piccolo passaggio, poi ne parleremo più dopo però. Ringraziarla per questo invito, non avrei mai immaginato di avere la fortuna di incontrarmi col presidente Renzi. Al massimo potevo aspirare di incontrare il ministro per le riforme. Forse lei può metterci una buona parola in modo che un prossimo incontro si possa avere con la ministra Boschi. Subito critico. Poi ringrazio il presidente Renzi perché la sua presenza qui mi pare che possa testimoniare per il sol fatto che i discorsi che si facevano una volta sui parrucconi, i rosiconi, i gufi, forse ci ha ripensato il signor Presidente, forse non pensa più così, perché se no non perderebbe il suo tempo qui con uno di quelli, no? Posso ritenere che lei abbia cambiato opinione? Non so cosa c'entri con la riforma costituzionale, ma mai io, mi sono permesso di dirle che lei è un parruccone. Diciamo, anche l'aspetto fisico dimostra che questo lo dimostra di in fatti, modo chiaro. Di vede, professore, c'è un passaggio molto chiaro. Io credo che i gufi... Non so se si riferisce al fatto che non ha i capelli Zagrebelsky, Barbara, comunque. Quando c'è una statistica dell'Istat sull'occupazione, fanno i comunicati stampa per dire... Se va bene l'occupazione, i dati sono fasulli. Se va male l'occupazione, evviva, il governo sta sbagliando. Non ho mai annoverato lei nella categoria né dei parrucconi né dei gufi. Mi fa piacere. Barbara Fiammeri, insomma, ha cominciato subito con una polemica un po' fuori, diciamo, dal focus del referendum, che è quello che rimprovera, diciamo, la gran parte dell'elettorato, forse, cioè del fatto che non si entra mai molto nel merito, sia da una parte che dall'altra, sia per quelli che hanno intenzione di votare o sostengono il no, sia da quelli che sostengono il sì. Speriamo che ci entreremo adesso nel merito. A sentire queste prime battute non mi sembra, perché se si parla di parrucconi o non parrucconi, speriamo che più in là vadano nel merito della riforma. Infatti, poi più tardi ci ricollegheremo, ma intanto con Barbara, per esempio Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera e componente del direttore del Movimento 5 Stelle, oggi ha detto a proposito di Renzi e del referendum: Renzi ha già sbagliato tutto sulle amministrative e oggi comincia a parlare di voti di destra o di sinistra. È legato a schemi dell'inizio della Seconda Repubblica, oggi non esistono voti di destra e di sinistra, ma i voti dei cittadini che hanno priorità totalmente differenti da quelle del governo. Secondo te è vero che ogni tanto si cerca di archiviare le categorie, no? Di destra e di sinistra? È vero secondo te? Ma allora, che non ci sia più una sinistra ideologica oppure che questa sia minoritaria è evidente anche dai dati elettorali degli ultimi anni, non parlo solo delle ultime elezioni. Che poi non ci sia una differenza, non chiamiamola destra e sinistra, li vogliamo chiamare conservatori e progressisti, ma insomma che ci siano varie alternative, anzi adesso abbiamo 3 alternative perché ci sono anche i 5 Stelle, mi sembra evidente. La cosa che secondo me dovrebbe, insomma, che caratterizza poi ciascuna formazione è quella di presentare una proposta di governo. In questo momento c'è il governo Renzi, la proposta del centrodestra è in itinere, quella dei 5 Stelle non si capisce bene, però per ora sono opposizione, quindi magari ci faranno capire più in là. Questa cosa del destra e sinistra, secondo me, è un po' una strategia, una tattica, no? La usa Renzi, l'ha usata per primo in realtà Grillo, quando appunto disse che le barriere ideologiche non esistevano più. Perché? Perché bisogna pescare nell'elettorato che vaga che vaga e che ancora non ha è mobile. L'Italia, ecco, secondo me c'è un dato storico che è importante e non riguarda solo l'Italia, perché vediamo che in tutta Europa si sta manifestando, ovvero non c'è più un elettorato statico per cui vota sempre quel partito, quello schieramento. È un elettorato più mobile. Essendo un elettorato mobile, come ha fatto l'altro giorno il Presidente del Consiglio dicendo cerco i voti di destra... Aspetta, che... lo sentiamo, scusa se ti interrompo, sentiamolo un attimo visto che l'hai nominato. Oh, questo non è un referendum che riguarda il PD, Il congresso si fa in un altro momento, questo è un referendum che riguarda il paese. Io ieri ho detto, è uscito oggi in un'intervista, che in questo referendum saranno decisivi i voti della destra. Perché? Perché mentre io credo che il PD e il centro-sinistra avrà la grande maggioranza di voti a favore, la destra si è schierata, in modo abbastanza stravagante per me, in una posizione totalmente ostile. E un autorevole esponente della minoranza del mio partito ha detto, vuole prendere i voti della destra. Sì. Forse è per questo che lui si chiama minoranza. Io invece vorrei chiamarmi maggioranza al referendum. Ecco Barbara, ce l'avevamo proprio qua. Insomma, quindi, sì, appunto. Cioè, ci sono state molte critiche fanno, da destra e da sinistra anche su questa dichiarazione. Ma è un gioco che fanno un po' tutti, no? Anche Berlusconi lo ha fatto quando si è rivolta agli elettori grillini, per esempio, quando diceva ma non capite che dietro di loro in realtà c'è la sinistra e quindi adesso vi fanno vedere una cosa, poi in realtà loro sotto sotto sono gli eredi dei comunisti. Quindi si cerca di prendere l'elettorato dei propri avversari, insomma. Senti, a questo proposito, l'accusa a Renzi di aver fatto riemergere, come dico io, il mostro di Loch Ness, cioè il ponte sullo stretto di Messina, che ogni tanto qualcuno dice può esistere, l'accusa è che abbia con questo annuncio, per esempio, aver strizzato l'occhio tra gli altri anche a elettori, possibili elettori di centrodestra? Sì, ma guarda, questa storia del ponte sullo stretto è una storia lunga da decenni. Sì. E l'hanno portata avanti un po' tutti, inizialmente anche Prodi, poi dopodiché Prodi era in una situazione di difficoltà come sempre i governi di centrosinistra, cioè con dei voti molto, cioè con una maggioranza molto risicata. E quindi lì ci fu una levata di scudi e alla fine si decise di bloccare il progetto. Il problema di bloccare un progetto è che poi devi pagare le penali a chi quel progetto precedentemente l'aveva affidato, nel senso che la continuità amministrativa non è che siccome si cambia un governo tu puoi ripartire da zero, e quindi in questo caso ci sono delle penali ancora in corso che possono produrre parecchie centinaia di migliaia. Alcuni ascoltatori mi ricordavano circa un miliardo. Già qualche giorno fa che però Renzi nel 2010 si era detto nettamente contrario, però insomma si sa che si può cambiare idea. Invece spostandoci sulla giunta Raggi, Barbara Fiammeri, allora la sindaca aveva promesso che in settimana, dopo settimane di attese, avrebbe annunciato i nomi, e i nomi sono arrivati, no? Per i due assessorati, Andrea Mazzillo, quello che sembrava l'assessorato più difficile da riempire, quello del bilancio, e Massimo Colomban alle partecipate. Già sono arrivate però le critiche, no? Di chi dice per disperazione, per esempio Renata Polverini, deputata di Forza Italia, ex presidente della Regione Lazio, che dice è stata una scelta di disperazione Mazzillo perché è un ex PD, pur essendo un fedelissimo. Qualcuno la critica perché l'ha pescato dal suo staff. È un problema averlo preso dal proprio staff, per esempio? No, allora, nessun problema. E tra l'altro, io trovo sinceramente abbastanza ridicola questa cosa, e lo dico francamente, questa cosa della virginità in politica, cioè non devi aver fatto politica. Io mi chiedo, se uno non ha fatto mai niente nella vita, difficilmente farà qualcosa di buono fuori. Non è detto che se uno ha militato nel PD piuttosto che in Forza Italia, piuttosto che nei 5 Stelle, certo, allora è marchiato, e non può... è marchiato a vita. Io penso che le persone vadano sempre giudicate per quello che sono in grado di fare. Diciamo che la scelta di Mazzillo, a mio parere, è una scelta che fa sorgere degli interrogativi, non tanto appunto sulle sue origini nel PD, la sua vicinanza a Onorato, che è nella lista Martini, ma quanto per il fatto che se dovevi scegliere una persona a te così vicina, lo potevi fare un mese fa, quando Minenna si è dimesso, quando l'assessore si dimise. Invece noi in questo mese abbiamo assistito a una sorta di, non so, di candidature poi ritirate, di assessori che sono stati nominati e in 24 ore sono stati fatti fuori. Cioè, abbiamo assistito a un balletto. Allora è evidente, mi sembra chiaro, che Mazzillo è perché non trovavano nessun altro, altrimenti il nome di Mazzillo sarebbe arrivato una settimana dopo le dimissioni di Minenna. Comunque direi, Barbara Fiammeri, adesso vediamo se da questo punto in poi veramente la giunta comincia a funzionare per il bene di Roma e della capitale d'Italia, no? E dei romani, ma anche di tutta l'Italia. Questo sicuramente è la priorità per la capitale e anche direi per il paese. Per quanto riguarda poi la scelta degli assessori, c'è anche un dato politico da mettere in evidenza, cioè la nomina di Colomban, che peraltro anche lui aveva sostenuto Zaia a suo tempo, perché Veneto, Colomban è molto vicino a Casaleggio, allora sembra evidente che in qualche modo Casaleggio e Grillo abbiano voluto mettere qualcuno che avesse occhi e orecchie per capire cosa avvenisse a Roma, visto che la situazione insomma sta un po' sfuggendo di mano, perché poi, come dicevi tu, c'è anche il caso Muraro che torna a montare e non sappiamo come finirà, insomma. Adesso sarebbe indagata anche per abuso d'ufficio in concorso con Giovanni Fiscon, ex direttore generale dell'AMA, perché, no? Non so se ricordi, io dicevo da tempo, pur non conoscendo gli atti giudiziari, che insomma una persona che ha ricevuto delle consulenze da dirigenti, amministratori, a loro volta indagati per mafia capitale, insomma è difficile pensare che un rapporto di fiducia non si fondi insomma su una fiducia vera e propria tra chi dà la consulenza e chi la riceve, e quindi probabilmente comunque, i magistrati stanno andando avanti in questo senso. Vedremo appunto come proseguiranno e quali altre cose nuove possano venire fuori. Intanto insomma auguriamo buon lavoro alla giunta Raggi e speriamo che da oggi si ricominci. Grazie Barbara Fiammeri, buon fine settimana a te. Ciao Barbara. Ci prendiamo questa pausa, anche se vedo molti vostri messaggi. Simone che dice: nel mondo la sinistra è diversa dalla destra, ma in Italia da sempre c'è un elettorato ibrido molto ampio. Poi Giuseppe: tradizionalmente i banchi a sinistra venivano occupati dalle rappresentanze laburiste, quindi dei lavoratori, non essendo attualmente presenti va da sé che non esiste l'opzione di sinistra. Francesco: effettivamente sono categorie ormai anacronistiche ed obsolete, non molto consone alle esigenze del mondo attuale. A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su RDS.it. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Abbiamo parlato molto di politica, ma proseguiamo in questo senso perché, vi dicevo, c'è appunto sulla 7 questo speciale con Enrico Mentana, ospiti ci sono il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il costituzionalista Zagrebelsky per parlare di referendum, le ragioni del sì e le ragioni del no. E ci colleghiamo tra pochissimo con Betta Fiorito da Roma, ma intanto vi ricordo, se non avete acceso puntualmente la radio, quali sono le notizie più importanti della giornata. È morto a Milano Bernardo Caprotti, fondatore di Esselunga, avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 7 ottobre. Roma, dopo settimane completata la giunta, il bilancio al fedelissimo ex PD Andrea Mazzillo, le partecipate l'imprenditore Massimo Colomban, tensione sulla Muraro indagata con un imputato di mafia capitale. Dati Istat, in un anno 162.000 occupati in più e a settembre fuori dalla deflazione dopo 7 mesi. Il Papa in Georgia, Francesco chiede ancora la pace per i popoli in guerra. Deutsche Bank verso l'accordo con gli Stati Uniti fa il botto in borsa, in mattinata c'era il crollo sui timori di fuga di alcuni fondi. Gerusalemme e leader da tutto il mondo hanno partecipato ai funerali di Stato dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. E poi sentenza della Cassazione, via libera al riconoscimento dell'atto di nascita di un bimbo nato in Spagna da due donne. Eccoci con la nostra Betta Fiorito da Roma. Ciao Betta. Sì, no, scusami, stavo sentendo Zagrebelsky, che in questo momento cita Jean-Jacques Rousseau, quindi volevo capire un attimo in che senso dice. Credevano di non essere liberi, insomma, poi si è visto come è finita la rivoluzione francese, no? Quindi, insomma, ci sono dei temi importanti questa sera, Roberta. Si parla di Costituzione italiana e questo è molto importante per tutto il nostro paese. Sappiamo, andiamo a votare per un referendum il 4 dicembre in cui c'è una modifica della nostra carta costituzionale. Ricordiamo però per i radioascoltatori che la modifica riguarda la seconda parte della Costituzione, quella dell'ordinamento dello Stato, in particolare il superamento del bicameralismo paritario. Ecco, di questo parlano il Premier Matteo Renzi e il costituzionalista ex presidente della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky sulla 7. Il dibattito è molto per addetti ai lavori, per non dire noiosissimo. Ecco, questo vogliamo allora sentire un passaggio di Renzi, lo vedo molto caldato. Io non ritengo, a differenza sua, l'Italicum un rischio per la democrazia, ma ho detto che se vogliamo cambiarlo, noi come PD prenderemo un'iniziativa per togliere ogni dubbio sui temi della legge elettorale, perché la legge elettorale si cambia. È una legge, come lei mi insegna, ordinaria, ma come si può, a meno che non si sia parlamentari come qualche autorevole vicepresidente della Camera che confonde il Venezuela col Cile e che parla di dittatori come Pinochet, costringere l'Italia ad essere assimilata a una antidemocrazia, a una dittatura? Caro professore, sì, ho l'impressione che lei deve fare pace con se stesso tra i suoi articoli. Sì. E anche con le sue dichiarazioni sulla legge elettorale. Accidenti, Betta, vanno sul pesante. Adesso si è animato il dibattito, perché finché parlavano di Costituzione e di riforma costituzionale era soporifero, te lo giuro Roberta, ma appena hanno iniziato a parlare di legge elettorale si sono scaldati. E per quello che non mi hai risposto subito ti eri un po' assopita, di la verità. Mi ero assolutamente assopita. Però ricordiamo infatti che il problema in realtà poi tutto il nodo non è tanto sulla riforma costituzionale che prevede il superamento del bicameralismo paritario con il Senato delle regioni e non elettivo, eletto di consiglieri regionali e di sindaci, ma il problema è l'Italicum, che è la legge elettorale, che non ha nulla a che fare con quello che si voterà il 4 dicembre. Ecco, spieghiamo perché ci si sposta continuamente su questo argomento e Renzi ha detto più volte negli ultimi tempi che è disposto a cambiarlo. E in questo, secondo me, i costituzionalisti, anche il fronte del no, un po' di ragione ce l'hanno. c'è stato questo, quello che si chiama il combinato disposto, che sembra una formula magica tipo in realtà è l'associazione tra queste riforme costituzionali, che sono anche doverose, e la nuova legge elettorale, che, diciamo così, danno troppo potere al governo. E questo, cioè, messe insieme queste riforme più l'Italicum, darebbero troppo potere. Queste due cose potrebbero dare troppo potere al governo, e questa cosa non va bene, perché ricordiamo che la nostra Costituzione nasce dopo la guerra, nasce proprio appositamente con pochi poteri al governo, proprio perché c'era stata una dittatura, e che quindi, insomma, vogliamo rappresentare tutte le forze politiche. E quindi la riforma potrebbe anche andare bene, ma il fatto che sia associata a una legge che poi dà molto potere al premier, il premier di maggioranza, eccetera, tutto quanto, potrebbe scivolare verso un'oligarchia o una soft leadership, non voglio dire dittatura, insomma c'è un rischio di troppa autorità del Presidente del Consiglio. Betta, sentiamo un pochino Zagrebelsky, come diceva Primo Renzi. Lo faccia vedere, ha fatto un libro lei su quello, certo, sulle presunte contraddizioni. Parliamone. Quali contraddizioni? Gli italiani a casa vogliono quali sapere. Quali contraddizioni? Lei utilizza... Le contraddizioni di chi? Non la voglio interrompere, no, mi scusi. Aspetti. Parli lei e poi allora, parlo come io. Diceva, scusa perché un nostro maestro, che forse lei ha conosciuto, che si chiamava Roberto Ruffilli, oramai siamo tutti troppo vecchi per essere coerenti. Abbiamo una nostra storia, le cose che affermiamo sono molto spesso legate alle circostanze, e non è una brutta cosa cambiare opinione. Però io, è vero, avevo affermato e continuo a ritenere che questa riforma collegata alla legge elettorale, pensando non a lei, al suo governo, ma ai governi che potranno venire in futuro, pensando alla condizione del nostro mondo, dell'Europa, ai populismi, alle derive di destra, visto che io non mi ascrivo a quella parte, ai problemi enormi che ci stanno per venire sulla testa, dalla crisi finanziaria, all'immigrazione, eccetera. Pensando a tutto questo, io credo che legge elettorale più riforma costituzionale saranno un terreno aperto per l'affermazione di poteri forti. Quello che dici tu insomma, Betta, abbiamo ancora pochi secondi, abbiamo 40 secondi se vuoi chiudere. Questo è il problema. Il problema è quello che si dice, appunto, il combinato disposto, che sembra una parolaccia, però il fatto di votare una riforma costituzionale che pure è importante, che ricordiamo ha bisogno dei due terzi del Parlamento e di un referendum confermativo se non ci sono i due terzi, come avverrà il 4 dicembre, e questa legge elettorale che è una legge ordinaria, che però insieme a questa riforma della Costituzione ha il rischio che ci possa essere un autoritarismo del governo. Questo è il punto della questione, Roberta. E vedremo se il nodo si scioglie, visto che Renzi dice da più tempo cambiamo l'Italicum, però avremo ancora tempo fino al 4 dicembre. Grazie Betta Fiorito. Molte notti insieme con i radioascoltatori di Radio 24. Sperando di non addormentarsi. Ciao Betta, direi che andiamo subito in viabilità. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo in pochi secondi: è morto Bernardo Caprotti, il fondatore di Esselunga, che è la prima in Italia per ricavi, avrebbe compiuto il 7 ottobre 91 anni. E poi a Roma la sindaca Raggi nomina Mazzillo al bilancio, alle partecipate Colomban, tensione sulla Muraro indagata con un imputato di Mafia Capitale. In un anno, dice l'Istat, più 162.000 posti di lavoro in più, a settembre fuori l'Italia dalla deflazione dopo 7 mesi. Ritrovati i due Van Gogh rubati nel 2002 ad Amsterdam, li aveva la Camorra, erano in un casolare dei clan, valgono 100 milioni di dollari. Deutsche Bank verso l'accordo con gli Stati Uniti, in borsa fa il botto, in mattinata c'è stato il crollo su timori di fuga di alcuni fondi. E poi sisma dell'Aquila: Bertolaso, l'ex capo della protezione civile, assolto dall'accusa di omicidio colposo nel processo Grandi Rischi Bis. E poi a Gerusalemme ci sono stati i funerali di Shimon Peres, ex presidente israeliano, omaggiato dalla presenza di molti leader mondiali.